Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, la vicenda Fincantieri. Praticamente ieri in serata in realtà, firmato al Ministero del Lavoro il piano di riorganizzazione di Fincantieri, non ha firmato la FIOM CGIL 1243. Esuberi, di questo parleremo più avanti, anche perché sono coinvolte due fabbriche note, quella di Sestri e quella, i due cantieri, scusatemi, di Sestri e di Castellammare. Ancora, per quello che riguarda le notizie più di cronaca, segnaliamo borse complessivamente, diciamo, buone. New York è quella più incerta, adesso guadagna lo 0,20%, Londra più 1, Francoforte più 0,90, Parigi più 1,1 e Milano più 1,20%. Di nuovo in evidenza alcuni bancari, soprattutto la Popolare di Milano, più 5,21%, ne parleremo nel corso anche dell'approfondimento di borsa, sia sul titolo in sé che sulla vicenda che riguarda quelle obbligazioni convertibili, però vendute secondo l'accusa come obbligazioni normali, che stanno facendo disperare migliaia di risparmiatori che si sono trovati praticamente con un valore pari al 90% dell'investimento al 10% dell'investimento iniziale, quindi 90% in meno rispetto all'investimento iniziale. Azimut più 3,5, A2A più 2,40 come stima Microelectronics, il monte dei Paschi, e anche Fiat Industrial guadagna il 2,40, Exor il 2,20 come Intesa San Paolo, il 2% lo guadagna Pirelli e Diasori, neanche Saipem. Buzzi Unicem più 1,80 come Ubi Banca e Fiat, e anche Tenaris. Chi perde? L'Automatica meno 1,60, Parmalat meno 1%, Enel Green Power meno 0,80, Campari meno 0,70%. Chiaramente parleremo anche della fiducia alla manovra e per quello che riguarda complessivamente l'intera operazione di fiducia alla manovra, l'intervento di oggi di Mario Monti, chiaramente ha detto tra le altre cose è essenziale che gli italiani sottoscrivano BOT e BTP. Cadono comunque sì al governo, al Senato, perché rispetto ai 281 voti favorevoli lo scorso 17 novembre, la fiducia del governo, i sì oggi sono stati 257, ai no della Lega, come vi hanno raccontato i nostri GR, vanno sommati quelli dell'Italia dei Valori, Sutirone Volkspartein e l'Unione Vadoten, praticamente 41 no contro i 25 dello scorso 17 novembre. 349-238-6666 per i vostri sms, era un convertendo, se non ho detto convertibile, ho sbagliato, chiedo venia, era un'obbligazione, c'era un convertendo sulle azioni. Il punto è che adesso è arrivata una lettera, mi riferisco alla BPM, a tutti quelli che avevano sottoscritto queste obbligazioni, dicendo se volete avrete il 10%, però ci sono novità anche su questo. E allora rapidamente le altre notizie in breve. In calo a $1,602, comunque sempre sopra i $1,600, petrolio stabile a $98,7 al barile. E nella classifica mondiale dei più grandi produttori di petrolio è in testa quest'anno Rosneft, quindi gigante statale russo. Ha superato infatti anche l'americana ExxonMobil nei primi 9 mesi del 2011, 88,6 milioni di tonnellate di petrolio prodotte contro le 87 di ExxonMobil, che era stabilmente fino a quest'anno il numero uno al mondo. Dagli Stati Uniti richiesta di sussidio di disoccupazione meno 4.000, il dato è buono, è il livello più basso quanto a richieste di sussidi di disoccupazione dall'aprile del 2008, bene anche il superindice economico, quell'indicatore sintetico sull'attività economica degli Stati Uniti, più 0,5% a novembre dopo il 0,9% di rialzo a ottobre, oltre ogni attesa. C'è stata però una revisione sul terzo trimestre quanto a crescita economica americana, dal 2% inizialmente stimato si è passati all'1,8%, migliore delle stime invece l'economia britannica, cresce più del previsto, infatti il PIL britannico nel terzo trimestre 2011 più 0,6%, non è tantissimo in più, però la stima precedente era un più 0,5% e di questi tempi è raro vedere una revisione al rialzo. L'asta, o meglio il prestito, alcuni lo chiedono, tecnicamente è un'asta straordinaria, ma in realtà di fatto è un prestito della Banca Centrale Europea alle banche europee. L'Italia ha sottoscritto il prestito triennale per circa 116 miliardi di euro, è parecchio, è quasi un quarto di tutti i 498 miliardi erogati, siamo al 23%, e tra l'altro in questo modo ha coperto l'intera asta della Banca Centrale Europea circa il 44% della necessità di fondi per il 2012 delle banche italiane. Praticamente per aggiudicarsi una quota così alta dei fondi complessivi, sono stati fondamentali 40 miliardi di obbligazioni garantite dallo Stato che 14 banche italiane hanno attivato in tempi strettissimi con il supporto del Ministero del Tesoro della Banca d'Italia. Però sullo spread non ci siamo, è risalito due ore fa a 488 punti base e su questo continuiamo a ripeterlo, insomma il livello è alto, è altissimo, non è un livello tollerabile, sono già 8 miliardi in più che abbiamo speso di interessi sul debito da quando è partita la corsa dello spread, o meglio la corsa dei rendimenti dei nostri titoli di Stato. Il ministro Fornero, allora, non so, noi avendo avuto l'allora professoressa, l'attuale ministra Elsa Fornero molte volte ospite, ci siamo permessi 3 giorni fa di dire forse non era il caso di sollevare il tema dell'articolo 18 in questo periodo, dopo che il paese sta cercando di digerire una riforma delle pensioni e c'è questa sensazione brutta, secondo Monti non vera, che a pagare siano i soliti noti. Non è che non si possa parlare dell'articolo 18, semplicemente il tempismo è importante anche e soprattutto per i politici. Allora, il ministro del lavoro Elsa Fornero, porta a porta, ha detto: sono stata un'ingenua, non ho nulla in mente sull'articolo 18, i giornalisti sono bravi a tendere le trappole. Io ho riletto quell'intervista, ci ho visto un'apertura, sì, è menzionato anche perché i giornalisti, lei lo sa meglio di me, sono bravissimi a tendere delle trappole e quelli che come me non sono abituati a un rapporto quotidiano con i giornalisti ci cadono facilmente nelle trappole. Quindi c'era questa menzione dell'articolo 18 e io nella mia ingenuità devo dire, ho detto ma si può anche parlare di questo. Scusi. Allora, su Twitter, visto che avete sentito, il ministro Fornero dice, rileggendo l'intervista ormai famosa al Corriere della Sera, mi sono accorta di... E su Twitter il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, ha replicato muso duro dicendo, già ieri in serata, la Fornero è caduta nella trappola di se stessa. Poi alla fine della registrazione di Porta a Porta il portavoce del ministro ha gettato acqua sul fuoco, ha chiarito che non si riferiva al Corriere, insomma a noi sembrava proprio di sì, ascoltando la... Allora, la politica non so se debba essere una professione necessariamente, ma sicuramente non è una cosa che si impara in un secondo, evidentemente, vale anche per il portavoce della Fornero. Ministro, come si fa a dire, lo dico con massimo rispetto, non ho nulla in mente? Se non si ha nulla in mente si sta zitti. Lei è il ministro del welfare, è ovvio che ogni parola che lei può pronunciare sull'articolo 18, sui contratti aziendali, sulla contrattazione di secondo livello, sulle pensioni, viene presa non come la parola del sottoscritto che non conta nulla, ma come un'indicazione politica. E che poi che i giornalisti siano bravi a tendere trappole, mi permetta, ma i giornalisti cercano di estorcere in maniera assolutamente corretta, diciamo, e dichiarazioni. Se lei le dichiarazioni le dà, non è una trappola, è il nostro lavoro. Io le faccio le domande, se lei vuole risponde, se non vuole non risponde. Ma se le chiedo l'articolo 18, lei mi dice no, si può ragionare sull'articolo 18, non è un tabù, ho fatto semplicemente il mio lavoro. Non è che quando uno fa l'economista i giornalisti vanno bene perché viene ospite in trasmissione, quando fa il ministro i giornalisti non vanno bene, no? Vabbè, nel frattempo oggi il leader del CGIL, Susanna Camusso, dice l'articolo 18 mi sembra ormai a questo punto un capitolo archiviato. Cambiamo pagina, che è meglio probabilmente. Parliamo di trasporto pubblico locale, perché Torino e Roma hanno già annunciato rincari per il 2012 nonostante l'intesa che il governo e le regioni hanno firmato ieri. Notizia di ieri sera, era questa mattina anche nei nostri GR, 1 miliardo e 600 milioni presenti e previsti, ma ciò nonostante già partono i rincari. Aumenti inevitabili, secondo Marcello Panettoni, presidente di Astra, l'associazione delle aziende di trasporto pubblico, al microfono di Anna Marino. Le ragioni sono sostanzialmente due. Nella media, già nel 2011, le regioni italiane hanno tagliato circa il 7%, 7-8% delle risorse prima disponibili per il trasporto pubblico locale, chiamiamolo su gomma, i tram, le filovie, le metropolitane, riducendo quindi il monte delle risorse disponibili. Questa è la prima ragione. Già nel 2011 questo è accaduto. In secondo luogo, le nostre tariffe sono mediamente molto più basse della media dei paesi europei, dal 30 al 50%, e in molti casi erano ferme da molti anni, quindi diventa inevitabile. Quindi secondo lei gli aumenti hanno una base che deriva da lontano, quindi nonostante i soldi arrivati devono essere fatti? Certo che sì, anche perché le tariffe e i contributi pubblici erano fermi da tempo e quindi in questi anni le aziende hanno dovuto assorbire, senza che nessuno avesse trovato misure compensative, tutto l'aumento dei carburanti che ha inciso a livello italiano per circa 180 milioni di euro. Quindi i soldi che arriveranno dalla manovra a che cosa serviranno? Sostanzialmente servono per ricostituire l'ammontare necessario a far funzionare i treni del trasporto regionale gestito da Trenitalia. Non sono risorse aggiuntive, sono risorse recuperate per metà, almeno diciamo a danno nostro, se vuole usare questa espressione, mentre l'altra metà derivano dalle risorse che il governo reperisce con l'aumento dell'accise che ha risposto con l'ultimo provvedimento. Che cosa vi auspicate adesso che sono arrivati i fondi per il trasporto locale? Intanto vogliamo sottolineare che queste risorse sono state reperite diminuendo in maniera consistente il fondo di dotazione del trasporto pubblico tradizionale, quello su gomma, le ferrovie locali e le metropolitane. Però noi siamo disponibili a dare il nostro contributo come associazione perché venga rapidamente approvato il modello del costo standard nazionale, articolato naturalmente nelle varie situazioni, per dare un parametro di efficienza alle nostre aziende, per dare il servizio migliore possibile al costo più contenuto realizzabile. Così appunto il presidente dell'Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico, Marcello Panettoni. Allora, due risposte brevissime, ragazzi, è Natale, vediamo se se ne accorgono anche alcuni ascoltatori. Dunque, chi mi dà del fenomeno dice, ma non era Berlusconi il problema dello spread? Sì, era anche Berlusconi, non so come ripeterlo, nel periodo più buio, fino ad ora perlomeno, della crisi, 11 novembre, lo spread ha toccato 570 punti. Altra cosa è poi dire che 100 punti in meno sono meglio, ma non bastano, perché 4,60-4,70 è ancora un livello altissimo di spread. Dopodiché, se volete, visto che oggi parleremo anche della Lega, abbiamo in archivio tutto un insieme di file, ossia di voci, di interventi dell'allora Presidente del Consiglio. Li stavamo riascoltando per montare alcune puntate natalizie di riepilogo 2009, 2010, 2008, in cui si dice semplicemente che la crisi non c'è, la gente non consuma, perché ci sono i giornalisti e i giornali che tendenzialmente di sinistra, che dicono che c'è la crisi, ma la crisi non c'è. Allora, chi tocca la categoria dei giornalisti muore, scrive un altro ascoltatore. No, non è questo il problema, è che io trovo assolutamente naif, per essere buoni, la dichiarazione del ministro Fornero: i giornalisti estorcono, tendono trappole, ma fanno le domande, se lei risponde e si mette nei guai da sola, dov'è la trappola? Di Fincantieri parliamo dopo. Oggi nel nostro racconto di cos'è questa crisi vista da altre angolature non c'è moltissimo, ma qualcosina c'è. E poi vedo che molti ci scrivono, e anche su Facebook, via mail, vogliono conoscere il testo della canzone cantata da De Angelis, canzone del 33, ma anche del 1930, rifatta in una versione anche più folk, ve la facciamo ascoltare dopo. Adesso però raccontiamo altre chicche di questa crisi. Vai. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. La crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Questa sembra scritta per la Germania adesso. Rinunciate alla parte del leone e forse ne usciamo, riferito alla Germania. Comunque invece parliamo di Francia. Il presidente francese Nicolas Sarkozy, stretto tra la paura di perdere la tripla A, ma fuori onda l'ha già detto che secondo lui la Francia perderà la tripla A, e le presidenziali del 2012, ha chiesto ai suoi ministri di partire il meno tempo possibile e di andare il più vicino possibile per le vacanze di Natale, di restare mobilitati al 100%, è quanto si legge appunto sul quotidiano Le Monde, che cita un intervento del presidente davanti ai suoi fedelissimi. Da parte sua Sarkozy ha fatto sapere che resterà tra Natale e Capodanno a Parigi con la famiglia. Un riccone avare vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. La crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà, e la crisi finirà. E anche questa del riccone sembra scritta apposta per questa notizia. Umberto Ruta, ex mediatore finanziario, è stato arrestato per evasione fiscale dalla Guardia di Finanza di Monza. Al fisco, la cosa interessante, era completamente sconosciuto. È interessante che uno faccia mediatore finanziario ma sia anche sconosciuto al fisco. Forse le maglie sono ancora un po' larghe, ma insomma faceva una vita da nababbo, aveva un appartamento a Milano in centro, due Porsche, una Harley Davidson, uno yacht con personale a bordo a disposizione sempre, villa con piscina in Sicilia. E tutta l'operazione che ha portato al suo arresto non è nata dai controlli incrociati. Caro Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, li vogliamo ancora più duri questi controlli incrociati, quelli seri sulla grossa evasione, non sugli studi di settore dei piccoli artigiani e piccoli commercianti. Dicevo, se ne sono accorti per un'operazione della Guardia di Finanza nata dal fallimento della Distrel, società di Bellusco dichiarata fallita dal Tribunale Brianzolo, che aveva portato in passato già l'arresto di 6 persone per bancarotta fraudolenta, truffe, false fatturazioni. Comunque lui era, Umberto Ruta, completamente sconosciuto al fisco, nonostante l'appartamento a Milano, due Porsche, l'Harley Davidson, lo yacht con personale a bordo e la villa con piscina in Sicilia. Ma i controlli incrociati? Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. La crisi, sa, capirà la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. E allora il governo Monti, è essenziale che gli italiani sottoscrivano botte e BTP. Vorrei capirci di più anch'io, nel senso che c'è già stato il BTP Day, il Bot Day, ci siamo permessi di far notare che si tratta, da un lato si leva uno strumento alle banche, ma dall'altro c'è anche il rischio di quello che si chiama in gergo il moral hazard, cioè tu adesso sottoscrivi il debito, cosa succede un domani se per caso la situazione butta male e devi chiedere di nuovo agli italiani seriamente di sottoscrivere il debito? Beh, probabilmente che non si fidano più. Comunque Monti sui BTP e i bot. Per superare la crisi dei debiti sovrani, consentitemi di passaggio di rilevare questo, è essenziale che tutti noi guardiamo con fiducia ai buoni del tesoro italiani. È essenziale che gli italiani sottoscrivano BOT e BTP, che hanno oggi rendimenti elevatissimi. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi, nella nostra capacità di preparare anche con queste azioni, con questi interventi, un'Italia migliore per i nostri figli e nella loro capacità di prendere in mano questo Paese e di migliorarlo. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. E la manovra, con un decreto di sostanza di estrema urgenza, mette in grado l'Italia di affrontare a testa alta la gravissima crisi europea. Così Mario Monti nel suo intervento appunto al Senato. Non c'è crescita senza disciplina economica. Su questo mi sembra che ci siano pochi dubbi. Con un avanzo primario che non ha pari in nessun paese europeo, a regime circa il 5% del PIL strutturale, l'Italia porterà in Europa il suo contributo alla stabilità, ma anche elementi di riflessione e di azione sempre più forti sulla politica economica della quale i nostri popoli hanno bisogno. Non c'è crescita senza disciplina finanziaria. Non c'è stabilità se i bilanci non sono in ordine. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. E poi la fase 2 del Presidente del Consiglio Monti. I temi chiave saranno lavoro e ammortizzatori sociali. Speriamo che questa fase 2 non vada a finire come le altre fasi 2, che non partono mai. Anche Tremonti ci disse che prima c'era bisogno del contenimento della spesa pubblica e poi le politiche per lo sviluppo. Le seconde non abbiamo mai viste. Comunque sentiamo anche questo passaggio del Presidente del Consiglio al Senato. Voglio dire, per quanto riguarda un tema che sarà chiave in questa nuova fase, il mercato del lavoro e gli ammortizzatori sociali, che sarà necessario e possibile procedere con uno stile di rapporto con le parti sociali diverso da quello che abbiamo dovuto avere in questa prima fase. Perché? Perché rispetto a temi come la fiscalità o come le stesse pensioni, il tema del mercato del lavoro richiede per sua natura un maggiore dialogo con le parti sociali e avremo una agenda strutturata di incontri tematici con le parti sociali, cosa che era meno necessaria e, dato il vincolo temporale, era strettamente impossibile comunque nelle materie coperte da questo primo decreto. E poi avremo un lavoro intenso di approfondimento, soprattutto sul versante della spesa pubblica, a partire da quella delle amministrazioni centrali dello Stato. Sarà un lavoro non di giorni ma di mesi, sarà un'opera che porterà a risultati duraturi. E poi le azioni sulle liberalizzazioni, pronti ad azioni coraggiose sulle liberalizzazioni. Non facciamo risentire De Gregori sul calciatore a cui serve coraggio e fantasia, però Presidente Monti, certo che saranno azioni coraggiose, forse era meglio agganciare al pacchetto complessivo Salva Italia, tanto quello dovevano votarlo comunque, se no andavamo a fondo. Comunque, azioni coraggiose sulle liberalizzazioni, speremmo. Si sono introdotti correttivi a favore di pensionati e famiglie, ma dobbiamo avviare una fase organica e ben meditata di riforme, delle quali abbiamo messo i semi all'interno di questo decreto, ma che vanno sviluppate con coraggio e rese sistematiche, per esempio in termini di liberalizzazioni. A questo riguardo, per quanto riguarda le liberalizzazioni, voglio affermare che tutti i suggerimenti, anche provenienti da uffici studi autorevoli, anche su settori delicati come per esempio le farmacie, e che tengono in mente anche obiettivi di tutela della salute pubblica, sono suggerimenti su cui il governo lavorerà con grande attenzione. Questi passaggi principali degli interventi di Mario Monti al Senato. Abbiamo detto, anche i nostri GR l'hanno ricordato, oltre alla Lega anche l'Italia dei Valori non ha votato. Vorrei far ascoltare però, dopo il meteo e la pubblicità, un passaggio dell'intervento del senatore Federico Bricolo. A chi ci chiede perché non chiamate Beffer e non glielo chiedete, riferito agli studi di settore e ai controlli incrociati, è stato ospite ieri mattina nel corso della due giorni dedicata alla crisi di Radio 24, tornerà ospite di Radio 24. Meteo e pubblicità 349-238-6666 per gli sms. :17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa: più 1,40% Milano, più 1,40 anche Parigi, più 1% Francoforte, più 1,1 Londra e l'America, più 0,26%. Il dibattito al Senato, però vorrei concludere questa pagina con l'intervento anche del capogruppo della Lega al Senato, Federico Bricolo, che c'è un passaggio che mi interessa particolarmente. Continuate a chiederci di chi è la canzone, ma cos'è questa crisi? Si sta creando anche un dibattito tra i fedelissimi del programma. Allora, la canzone di Ettore Petrolini del 1930, quindi a nemmeno un anno dal crollo di Wall Street. Poi la ricantata De Angelis nel 1933. Ma c'è anche una versione molto molto più recente di un gruppo che si chiama Folca Bestia, sempre ma cos'è questa crisi? Il testo è quello originale di Petrolini. Se la regia me la manda, così sentiamo anche Bricolo su questo. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Che al teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, per capirà la crisi. Il capogruppo al Senato, Federico Bricolo, nella sua dichiarazione di voto, non dando la fiducia al governo, ha detto voterà contro questa manovra, una rapina contro le famiglie, i lavoratori e i pensionati, non risana i conti dello Stato e i popoli del Nord riprenderanno le loro libertà. Così si va nel baratro, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di affondare. Il Nord troverà altre strade. Abbiamo aperto il Parlamento della Padania. È lì. Vedrete. Io sono veneto e ricordo che la Repubblica Serenissima ha governato per 1000 anni. Concluda, senatore Bricco. Sì, però, senatore Bricco, colleghi. La storia, Presidente, va avanti. tutto può accadere anche che da una manovra come questa i popoli del nord possano riprendersi la propria libertà. Grazie. Va bene, va bene. Cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Allora, benissimo, può essere che la manovra, l'abbiamo detto più volte, abbia un effetto recessivo, anzi tutte le stime lo dicono, quando vai a tagliare, ridurre, è chiaro che difficilmente il PIL cresce, anche se manca un pezzo della manovra, e speriamo che arrivi la fase 2 di Mario Monti, quella sulle politiche di crescita, anche a partire dal vantaggio fiscale, dalla riduzione del cuneo fiscale, dal vantaggio fiscale per chi fa investimenti o fusioni. Però, mi scusi senatore Bricolo, ma le manovre degli ultimi 3 anni invece... che avete fatto voi, che avete votato voi? No, perché eravate al governo fino a 1 mese e 10 giorni fa, io questo trovo inaccettabile, così come, ripeto, non mi sembra che il PD abbia una gran manovra finanziaria alternativa, ma almeno sta zitto. Cioè, la Lega mi deve dire che cosa avrebbe fatto per uscire da questa situazione. No tasse, no pensioni, no ICI, dove li prendevamo i soldi? Dall'evasione fiscale? E come? La borsa. Più 1,40%, e allora di nuovo molto bene la Popolare di Milano. Partiamo dalla Popolare di Milano perché ci sono due notizie oggi. In realtà, una è quella del titolo, appunto, che va e guadagna il 5,1%. L'altra è quella che riguarda l'obbligazione, un'obbligazione BPM che in realtà era un derivato, ossia poteva essere convertita in azioni. Non se n'è accorto quasi nessuno dei 15.000 azionisti, scusatemi, correntisti della BPM che lo hanno sottoscritta e ci hanno anche scritto poi. Perché? Perché poi gli è arrivata una lettera della Banca Popolare di Milano che diceva: adesso ti abbiamo convertito, non so, i 10.000 euro che hai messo nella nostra obbligazione, come da accordo adesso è convertita in azione e valgono 1.000 euro. Se uno era convinto di aver comprato un'obbligazione, è chiaro che gli viene un mezzo infarto. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo da qui. È arrivato intanto c'è un PM che sta indagando, anzi due PM della Procura di Milano, Roberto Pellicano e Mauro Clerici. La Consob ha già multato la banca per 300, anzi tre manager della banca per 370.000 euro per le modalità con cui era avvenuto questo collocamento. Anche il prospetto informativo io l'ho visto, non ci si capisce una mazza, ragazzi. Detto ciò, oggi c'è una proposta della Popolare di Milano. Oggi c'è proprio l'assemblea dei bondholder che ha approvato la proposta della banca di ristrutturare questo prestito. La proposta appunto prevede da una parte l'anticipazione della conversione automatica, perché era prevista inizialmente per il 2013 e invece dopo la ristrutturazione approvata oggi verrà convertito la prossima settimana, cioè il 29 dicembre di quest'anno. È una proposta che migliora, cioè limita i danni per i sottoscrittori, nel senso che quantomeno il prezzo di conversione viene tagliato, più che dimezzato, da 6 euro che era quello previsto inizialmente a 2,71 euro. Naturalmente, visto che il titolo in borsa vale 0,3, per il sottoscrittore rimane un salasso, è sicuramente un'operazione non conveniente e chi ha sottoscritto il titolo rischia una perdita tra il 50 e il 70%. Bisogna considerare che nel frattempo, in questi anni, dal 2009 ha incassato una cedola del 6,75 all'anno, ma sicuramente adesso il prezzo di conversione penalizza drasticamente l'investimento. Ecco, vediamo, vediamo anche quale sarà l'accoglienza dei 15.000, se non ricordo male, no? Di investitori retail, sì, sono circa 15.000. E naturalmente ricordiamo che nei giorni scorsi Federconsumatori ha annunciato una class action sulla questione. Oggi nell'assemblea che ha approvato a larga maggioranza, perché ovviamente il voto favorevole è stato soprattutto quello degli investitori istituzionali che hanno scelto di limitare i danni, e comunque la contestazione dei piccoli investitori è stata abbastanza sostenuta e vibrante nei confronti dei vertici. E tra i vertici c'era presente soltanto il direttore generale Enzo Chiesa, che all'epoca del collocamento era condirettore direttore generale, sì, e che è proprio tra quei tre manager che sono stati multati dalla Consob. La Consob contestava ai vertici il fatto che il prodotto era stato collocato presso investitori il cui profilo di rischio non era coerente con la sottoscrizione di questi prodotti. Allora c'è il traffico, poi gli altri titoli, poi vedo che molti vogliono che risponda al senatore Bricolo, ma perché sono veneto anch'io, ma no, ma ognuno può dire quello che vuole, attenzione, cioè, l'importante è che dica anche cose propositive. Qualcuno mi scrive, ma insomma le manovre precedenti erano di riduzione della spesa e questa è di aumento delle entrate, ma dove l'ha vista, mi scusi, con massimo rispetto, alla riduzione della spesa, che la spesa corrente è sempre cresciuta, ma, cioè, ma dove l'ha vista la spesa? Abbiamo avuto un deficit, che la spesa corrente della pubblica amministrazione è in costante crescita da anni. Se mi racconta un taglio fatto alla spesa pubblica, chiedo scusa immediatamente. Traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al di là della Banca Popolare di Milano, tra l'altro volete sapere chi sono stati i manager condannati dalla Consob? Avete ragione, 175.000 euro di multa all'ex direttore generale della BPM Fiorenzo Dalu, al suo successore Enzo Chiesa, anche lui 135.000 euro, e invece 27.000 euro di multa al responsabile della funzione compliance Ivano Venturini per il modo in cui erano state vendute queste. È chiaro che tu puoi vendere qualunque strumento finanziario, basta che sia ben presente a chi te lo compra il profilo di rischio. Quello che sta emergendo è che in molti casi questo strumento, che era tipico di chi ha un profilo di rischio medio-alto, è stato, se non alto, è stato venduto a chi aveva profili di rischio bassi o bassissimi, cioè voleva semplicemente comprarsi un'obbligazione corporate della Popolare di Milano. Andiamo avanti con la borsa invece, UbiBanca e Lottomatica. Per quanto riguarda UbiBanca, beneficia del buon momento oggi tutto il settore bancario in tutta Europa, è andato bene. Oggi diciamo che gli investitori si sono concentrati sui benefici derivanti dalla maxi asta di liquidità lanciata ieri dalla BCE, che ha, diciamo, ha diminuito drasticamente le tensioni sull'approvvigionamento per le banche europee. Quindi tutto il settore bancario è salito. UbiBanca ha beneficiato di questo, è salita del 2,25%. Inoltre ieri l'istituto ha annunciato che con l'assemblea di aprile lascerà il gruppo l'attuale direttore generale, ma ha già annunciato tutta la nuova struttura di governance, quindi i nomi dei manager che prenderanno il posto del DG uscente, e inoltre ha semplificato la struttura di vertice, una semplificazione che è stata apprezzata dal mercato, che ha sostenuto il titolo. Diciamo che la struttura di comando è molto più snella rispetto al passato, e questa ovviamente è una cosa che gli investitori apprezzano. Per quanto riguarda l'Automatica, è stato il peggior titolo nel paniere principale di Piazza Affari, ha perso l'1,3%, secondo gli operatori risente dei dati sulle scommesse sportive comunicati ieri. Da gennaio a novembre le scommesse sportive sono scese del 12,7%, mentre nel solo mese di novembre hanno perso quasi il 25%, e quindi ovviamente l'Automatica, che è un player del settore, ne ha risentito. E poi la vicenda Fondiaria SAI, sempre più complicata. Oggi il titolo di nuovo in flessione, poi in realtà ha recuperato, ma domani c'è, se non ricordo male, il Consiglio di Amministrazione che deve esaminare le varie opzioni per l'aumento di capitale, per la forza del capitale. Esattamente, il titolo in una giornata positiva per il settore finanziario ha perso il 3,5%, domani c'è il Consiglio di Amministrazione e sembra sempre più probabile che l'opzione che dovrà essere scelta sarà proprio quella di un nuovo aumento di capitale dopo quello già portato a termine in estate, tra l'altro per una cifra sembra probabilmente superiore a quanto stimato inizialmente. Si parla adesso di circa 750 milioni, fino alla settimana scorsa si parlava di 600 milioni, e quindi naturalmente il mercato ha continuato a scontare questa prospettiva. Ne sapremo di più sicuramente domani, ma in attesa del CDA gli investitori hanno continuato a vendere il titolo, che adesso è sulla soglia degli 0,7 euro per azione. Ancora, per quello che riguarda i migliori e peggiori, oltre Fondiere Assai, tra i peggiori Elica meno 4,16, Meridiana meno 4,64, il migliore in assoluto è Arena più 25%, Brioschi più 10,1%, Premuda più 7,32%, First Capital più 6,94%, Edison più 5,70%. Le baruffe chiozzote dentro Edison evidentemente fanno bene. Grazie a Paolo Paronetto, e adesso però tocca occuparci di nuovo di Fincantieri dopo ieri l'incontro al Ministero del Lavoro e la conferma degli esuberi, purtroppo sono quelli che già erano stati stimati, ossia si tratterebbe di oltre 1243 persone. Borsa estere? Può essere, avete ragione, comunque ve le do subito, più 1% Francoforte, più 1,36 Parigi e più 1,25 Londra. Bene, tra i titoli anche Pirelli, più 2,5% come Exor e la Popolare Emilia Romagna, più 2,20 UbiBank, Diasorin, Tenaris più 2 come Saipem, l'1,84% lo guadagna Buzzi Unicem, tra chi ha perso oggi in borsa Parmalat meno 1,15, Generali meno 0,80, Enel meno 0,50%. Vicenda Fincantieri, i due stabilimenti coinvolti purtroppo, Castellammare e Sestri, 1243 esuberi, non ha firmato ieri sera la FIOM CGL. Fincantieri è uno dei principali gruppi di cantieristica navale al mondo, 3 miliardi di giro d'affari. Al 99% è controllata da Fintecna, quindi Ministero delle Finanze, e ha 6 navi da crociera all'ordine, 8 isti produttivi: Monfalcone, Marghera, Ancona, Palermo, Castellammare di Stabia, Muggiano, Riva Trigoso e Sesti Ponente. Appunto, Castellammare di Stabia e Sesti Ponente sono i due coinvolti, altri 4 cantieri ne hanno negli Stati Uniti, 8.000 dipendenti complessivi, 1.240 esuberi e sono tante persone. Raul De Forcade, buonasera. Sì, buonasera. Dal Sole 24 Ore da Genova. Allora, su questo, al di là della FIOM CGL, secondo te il piano di esuberi e di ristrutturazione andrà, passerà? Beh, io credo che vada sicuramente verso un'approvazione, anche visto il fatto che tutte le altre forze sindacali l'hanno sottoscritto, quindi è facile che a questo punto l'accordo possa arrivare a una conclusione, anche perché precedentemente a questo accordo Fincantieri ha siglato diversi accordi territoriali negli 8 cantieri che tu ricordavi sul territorio, e gran parte di questi accordi hanno avuto un esito positivo, sempre con la differenziazione fra FIOM da una parte, che si opponeva all'accordo, e FIM, WILM e le altre sigle che invece lo sottoscrivevano, non in tutti i siti, ma diciamo che questo è un po' l'orientamento che finora si è tenuto, ecco. E ancora, per quello che riguarda il cresce la tensione a Sestri Ponente, quindi a Genova, presidio davanti allo stabilimento, ci sono dal Ministero del Lavoro sono arrivate anche indicazioni su cosa capiterà a questi 1240 lavoratori? Sì, io credo che adesso l'accordo sia appunto una bozza di accordo, ma la cosa su cui aveva premuto, che fanno notare anche gli altri sindacati, il Ministero del Lavoro, era la possibilità di modificare il termine dell'ultimo che era stato dato per il 4 dicembre per le pensioni, per far rientrare i lavoratori nei percorsi previdenziali che erano precedenti, diciamo, alla manovra Monti. Quindi esiste questa possibilità. Dall'altra parte la FIOM ovviamente lancia l'allarme che invece sia il rischio che solo alcuni di questi lavoratori diciamo in esubero possano accedere a questi percorsi. La verità è che l'intenzione dell'azienda è fare una politica di esuberi soft, diciamo, non una politica di licenziamenti, cioè di accompagnare gradatamente all'uscita con o uscite incentivate oppure appunto pensionamenti eccetera, e questi lavoratori sì. alla fine del lavoro, insomma. Grazie Raul De Forcade, anche se purtroppo non commentiamo una bella notizia. Quanti secondi ho? Praticamente niente. Allora c'è il GR, poi torniamo sia sul rapporto Deloitte ma anche sull'analisi della fase 2 del governo Monti e anche quello che ha fatto ieri la Banca Centrale Europea. 349-238-6666 per i vostri SMS. 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, qualche notizia positiva c'è, è da un po' che voglio parlare della classifica, non riusciamo a farlo, c'è stata la fiducia, la presentazione della manovra, l'operazione della Banca Centrale Europea, ma dicevo della classifica del gruppo Deloitte sulle prime 500 imprese quanto a innovazione sull'alta tecnologia, quindi ricerca e sviluppo. Due risposte rapidissime, poi parleremo di politica. Allora, sul fatto che la Lega non abbia proposto, alcuni dicono fate la proposta della Lega era quella sulle quote latte. Sì, voglio dire, la Lega aveva proposto di non finanziare le missioni italiane all'estero, è vero, ma col cavolo che fa la manovra solo su quello. Dopodiché le missioni del governo precedente le ha sempre finanziate. Sulle quote latte corre l'obbligo di ricordare che la vicenda delle quote latte è costata a questo paese, cioè a noi contribuenti, 4 miliardi di euro, perché 400 milioni sono già stati pagati dai produttori, il resto è ancora da riscuotere, e in questo la Lega ha sempre difeso gli splafonatori, che a noi risultano essere 660, è inutile che poi scriviate, no, sono migliaia di più. Le fonti, non basta stare su Facebook o sulla rete, lo dico anche a chi scrive, attenzione, lo spread non è quello che voi dite, no, lo spread è toccato dal governo Berlusconi nel momento peggiore della crisi, si è arrivati ai 571 punti con dato medio di chiusura il 10 novembre 557 punti, 7 novembre 550, quelli erano i punti. Abbiamo solo detto che i punti di adesso, ossia 460, di quella che era la differenza tra quanto costa noi indebitarci e quanto costa la Germania, sono 100 punti in meno rispetto a quelli della parte finale del governo Berlusconi, ma sono un livello ancora altissimo. Chiuso questo, parliamo di aziende italiane che ben si mettono in evidenza. Si è svolta infatti a Londra la cerimonia di premiazione dell'undicesima edizione dei Deloitte Technology Fast 500, cioè insomma le 500 aziende a più alta componente tecnologica. Siamo in collegamento con Alberto Donato, partner di Deloitte, responsabile del settore technology. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti voi. Allora, voi fate servizi professionali in imprese a livello mondiale, siete presenti come Deloitte in 140 paesi, avete 182.000 persone che lavorano per voi, ma andiamo subito alla classifica. Se ho ben visto, la crescita media di queste 500 aziende attive nel settore tecnologia, internet, biotecnologia, appunto medicale, scientifico, è stata in questi 5 anni in media del 1200%, è corretto? È corretto, la media delle 500 aziende che abbiamo premiato a Londra, in particolare alla Torre di Londra, è stata del quasi 1300%, 1300% da misurare nei 5 anni di fatturato delle aziende, e le 500 aziende rappresentate sono entrati tanti paesi, sono entrati anche i nostri cugini vicini al nostro paese, sono entrati la Francia, che è stato il paese maggiormente rappresentativo, con 93 aziende su 500, la Gran Bretagna e i paesi nordici tipicamente avanzati nel settore high tech, che sono la Svezia, la Norvegia e i Paesi Bassi. Allora, la Francia con 93, la Gran Bretagna si ricorda quante imprese avesse in queste 500? La Gran Bretagna 86 aziende, ma in particolare 4 aziende tra le prime 5 del premio erano UK. Erano britanniche. Grande risultato. Lo dico perché su queste 500 aziende che si sono confermate, anzi che sono state premiate come quelle che sono cresciute di più, 93 sono francesi, 86 britanniche, purtroppo quelle italiane, se ho ben capito, sono solo 3. Sono solamente 3, sì, le confermo. Il risultato che è migliorativo rispetto a quello dell'anno scorso, capirai, dove avevamo avuto solo un'azienda, e ancora meglio rispetto a 2 anni fa, dove nessuna azienda italiana era rientrata nelle prime 500 aziende. No, voglio dire, meglio quando parti da zero, già fare 3 vuol dire triplicare il risultato, però fa molta specie vedere che in un settore come questo, che è il settore che in questi anni, lo dico, è cresciuto di più in assoluto, che ha sentito anche meno della crisi, della recessione, tant'è che appunto in questi 5 anni la crescita media è stata in 5 anni del 1200%. Vedere così poche aziende italiane fa capire anche qual è il problema di questo paese. Delle volte siamo troppo concentrati con dimensioni troppo piccole in settori troppo tradizionali, e qui mi fermo. Allora, chi è che ha vinto la prima classificata? La prima azienda è stata un'azienda turca che opera nel settore del web. Il nome è Logic Bilisim. Quanto è cresciuta in questi 5 anni? È cresciuta del 28.600%. 28.600%? Percento, assolutamente. Ma è anche quota in borsa in Turchia? No. Ah, se no era un bel investimento. E le altre 4 invece, nelle prime 5, mi diceva che sono britanniche? Sono tutte britanniche, operanti nei vari settori, internet, web e software. E anche queste hanno avuto una crescita superiore tra il 15 e il 25.000%. Tra il 15 e il 25.000%. Vabbè, le 3 italiane, chi sono innanzitutto e quanto sono cresciute? Le 3 italiane sono il gruppo Terni Energia, che si è posizionata 49esima, quindi dobbiamo dire in ottima posizione. Gruppo 49esimo posto, giusto? 49esimo posto. Sì. Il gruppo opera nelle energie rinnovabili, negli impianti, nella parte tecnica, nel green tech. La seconda... E di quanto è cresciuta Terni Energia in questi 5 anni, così capiamo? È cresciuta, direi, del 2000%. 2600 forse? 2000%. Sì. Mm-hmm. 2000% in 5 anni, capirai. È andata molto bene. Le altre sono andate meno bene, però la Otto Telematics è la prima azienda italiana che vince per 2 anni consecutive questo prestigioso premio, entra nelle Fast 500. La società è Otto Telematics, è specializzata nel fornire sistemi e servizi telematici per il mercato assicurativo e anche automotive, ed è focalizzata molto sulla mobilità sostenibile. La società, cosa importante, è che opera nel settore italiano, ma ha appena iniziato ad espandersi anche nel mercato americano. Quindi è un esempio di come le nostre aziende iniziano bene ad operare in Italia, ma per iniziare a avere delle crescite importanti devono andare su altri mercati. Su altri mercati. Di quanto è cresciuta in 5 anni la Octo Telematics? Direi più del 1000%, le sto dando dei dati approssimativi, ovviamente non ho dati davanti, certo, precisi. E poi abbiamo la terza. La terza società che sviluppa software, in particolare specializzata nel mondo bancario, è la società Lynx, anch'essa ha 5-6 anni di vita, ha iniziato nel mercato italiano, quest'anno ha iniziato nel mercato, si è espansa, è andata sul mercato spagnolo e sul mercato portoghese. Si è classificata 498esima. Grazie, meglio 3 che niente, ha ragione l'ascoltatore che dice il triplo di 0 è sempre 0, ho detto solo che 2 anni fa erano 0, quindi nessuna azienda italiana presente in questa classifica, adesso sono 3, poche, pochissime rispetto ai nostri concorrenti più vicini, ma sempre meglio che niente. Grazie ad Alberto Donato, partner di Deloitte, adesso il traffico e poi la mossa delle BCE di ieri, la manovra approvata al Senato oggi, le critiche della Lega. 349-238-6666 per i vostri SMS. minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, volete sapere quando inviteremo l'astrologa? Domani, abbiamo detto domani, chiudiamo in bellezza prima di Natale con le previsioni dell'astrologia. Ma dalle stelle adesso andiamo subito alle tenebre. Eccolo che aleggia sopra gli alberi di Natale di una poco illuminata Milano. Devo dire, Giulio Sapelli, professore di storia economica alla Statale di Milano, buonasera, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera, leggero come una piuma. Leggero sì. Come una piuma, sì, insomma. Allora, Sapelli, in radio tutto vale. Allora, un racconto apocalittico dall'economia all'antropologia, Bruno Mondadori, l'ultimo libro, ci deve qualcosa sul copyright, perché l'apocalisse l'abbiamo creata noi con lei, però... Gliela concediamo. Primo commento, poi arriviamo anche alla Lega, alla secessione della Padania, al Veneto. Però primo commento sull'operazione della Banca Centrale Europea ieri. 400 e passa miliardi erogati, ma soprattutto 489 miliardi, 116 per l'Italia, il 23% del totale. A me sembra che, mi sono permesso di dirlo ieri, Mario Draghi, zitto zitto, umma umma, si stia comportando in maniera un po' diversa da quello che vorrebbe la Germania e dai suoi predecessori. Ma io sono completamente d'accordo con lei, devo dire che veramente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, in questo caso c'è un comportamento virtuoso, perché se dovessimo stare alle parole, ai dinieghi che la signora Merkel ha sempre fatto, certamente ha ragione, completamente ha ragione, Mario Draghi si sta comportando come il capo di una banca centrale europea che ha quasi lo statuto della Federal Reserve, cioè questo naturalmente credo che provocherà un mare di polemiche tra coloro che non sono d'accordo, credo che sarà una cosa molto complicata, però di fatto sta scaricando nell'economia, soprattutto nell'economia finanziaria, una quantità di liquidità spaventosa che prima non avremmo mai immaginato. Non siamo davanti al prestatore in ultima istanza, ma poco ci manca, insomma. Quindi... sta diventando, lo dico molto a bassa voce che non se ne accorgono i tedeschi, sì. Sta diventando, diciamo, l'ultimo scudo, l'ultimo prestatore, non lo voglio dire, ma insomma, per le banche europee. Detto questo, secondo lei le banche, a partire da quelle italiane, questi soldi li useranno per allargare di nuovo il credito, stando a quello che leggiamo per molte piccole e medie imprese si profila un 2012 peggiore anche del 2009, sì. Oppure compreranno bot, BTP, bonus, perché hanno rendimenti alti? Ma qui mi pare che l'indicazione del governatore di Draghi è stata molto chiara, naturalmente si offre a un prezzo tracciato, diciamo l'1%, questa liquidità finché comprino tanto titoli del debito sovrano, quindi tanto titoli di Stato, quanto ha ribadito molte volte Draghi, concedano anche credito a condizioni vantaggiose alle imprese e alle famiglie. Quindi c'è una doppia finalità. Naturalmente, conoscendo la situazione del debito pubblico in Italia, questi 164 milioni sono soprattutto erogati per i nostri titoli, per il debito sovrano. Quindi, allora, sapete, respiri con noi, perché adesso invece arriviamo alla parte italiana, e le faccio ascoltare di nuovo, perché molti lo vogliono, l'intervento di Bricolo oggi, senatore capogruppo della Lega Bricolo al Senato. Vedo che alcuni ricordano anche il federalismo fiscale, il quota standard, quello va benissimo, noi l'abbiamo sempre personalmente appoggiato, ma nulla c'entra con i problemi a brevissimo, cioè ridurre il deficit, portarlo a zero, riequilibrare i conti delle finanze pubbliche. Ci vogliono anni perché quel progetto, che secondo me aveva molti elementi positivi a partire dai costi standard sulla sanità, venga implementato. Comunque, senatore Bricolo. Così si va nel baratro. Ma noi non abbiamo nessuna intenzione di affondare, il Nord troverà altre strade. Abbiamo aperto il Parlamento della Padania, è lì, vedrete. Io sono veneto e ricordo che la Repubblica Serenissima ha governato per 1000 anni... Concluda, senatore Bricolo. Sì, però senatore Bricolo, colleghi... La storia, Presidente, va avanti. Tutto può accadere anche che da una manovra come questa i popoli del Nord possano riprendersi la propria libertà. Grazie. Va bene, sì. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si lamenta l'impresario che il teatro altro più non va. Ha sentito, professor Sapelli? Ho sentito. Anch'io sono veneto. Un ascoltatore ha scritto una cosa bellissima. Adesso la cerco e gliela leggo. Sì, me la legga, grazie. Ma cos'è questa crisi? E niente, non la trovo più, troppi messaggi. Diceva, insomma, da Morosini, Dandolo, io, Venier, io aggiungo anche Bragadin a Bricolo. Diciamo che la strada della Serenissima si è fermata un po' prima, per fortuna. Però il tema c'è tutto. La Lega punta e all'opposizione, nega di aver governato fino a un mese fa, sostanzialmente punta sull'Alzheimer politico di questo paese. Ma nel 2012 noi avremo una recessione, quindi la scommessa può avere anche un suo senso. La cosa che mi sorprende è però la notizia che abbiamo raccontato due giorni fa. Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Perché il rapporto di Intesa San Paolo ha mostrato nettamente come l'export dei distretti industriali italiani sia cresciuto più addirittura di quello tedesco, con settore metalmeccanico, Brescia, Lecco, Vicenza, Verona, La Moda, Arzignano, Carpi, Riviera del Brenta, Biella, Arezzo, Prato e l'agroalimentare Alba Cuneo, provincia veronese, Roero, Monferrato, con numeri di tutta eccellenza. Allora, che cosa sarà questa crisi per echeggiare il rifacimento della canzone che stiamo sentendo, che è quella di De Angelis e i prezzolini degli anni 30. Che cosa sarà questa crisi, Sapelli? Ma sarà una crisi completamente diversa da quelle che abbiamo avuto prima. Io su questo ci sto lavorando scientificamente. Le crisi economiche che avevamo prima avvenivano in un contesto industriale, di industria manifatturiera parlo, lasciamo da perdere la finanza, manifatturiere di servizi, molto più semplice, meno più complesso di quanto non sia oggi. Cosa vuol dire? Che in questa industria, in questi nuovi servizi che sono avanzati in questi ultimi 20 anni, non andranno tutti quanto indietro nello stesso momento, ci saranno sempre settori che continueranno a avere opportunità di crescita. Le faccio un esempio: per difficoltà finanziarie, per aumento del costo del carburante, è previsto una caduta verticale nella costruzione di nuovi aerei. Ma questo non vuol dire che il business dell'industria aeronautica, da parte soprattutto di medie e piccole imprese, ma anche di grandi imprese come General Electric, Rolls-Royce, non continui nel settore dei ricambi e della manutenzione, perché ormai non ci sono alcune strutture industriali che sono irreversibili, quindi ci saranno sempre delle tendenze anticicliche. Questo bisogna tenerlo presente, perché l'industria di oggi è molto diversa rispetto a quelle delle crisi del 29, del 1907 o alle recessioni che abbiamo avuto nel 70. Questa l'avevamo già avvertita nel 2007, adesso sarà ancora di più. Abbiamo dei settori che sono in controtendenza, sono delle filiere tecnologiche, soprattutto di componentistica, di prodotti di eccellenza o di satelliti molto specialistici. Quindi dobbiamo capire che sarà una crisi a macchia di leopardo. Direi che la cosa fondamentale è la macchia di leopardo, il concetto di fondo. Prima sì. Invece c'era la macchia dell'elefante, buio che arrivava. Sì, e tutto si è bloccato nel 2009, a inizio 2009. Ricordiamo le navi fuori, i cargo fuori dal porto di Anversa e altre amenità. Lei dice adesso sarà, che vuol dire però, essendo una media, professor Sapelli, che alcuni distretti e settori, ma soprattutto distretti di filiera, con le filiere tecnologiche, non andranno poi così male, ma altri andranno molto male, perché poi andranno molto male, come dicevo prima, purtroppo sarà una montagna russa, o come andare in un canyon, ci sarà chi precipiterà nel canyon e chi invece camminerà sulla cima. Mi sembra Willy Coyote più che analisi economica. Adesso insomma, noi cavalieri dell'apocalisse cavalchiamo allora, sia nel fondo che nella cima. Io le auguro buon Natale, non so dove lei lo trascorrerà, non so se avete dei teschi sull'albero invece delle lampadine, però insomma, buon Natale anche a Giulio Sapelli. Grazie anche a lei, carissimo, agli ascoltatori. Ci sentiamo nel 2012, Sapelli. Ed è tutto da Dow Jones più 0,50%, da Sebastiano Berisoni, un auguro di buona serata, domani l'ultima puntata prima del Natale di Focus Economia. Radio 24. Il Natale si sente.